Se la velocità è 3 per 10 alla quinta chilometri al secondo e il tempo è 54 per 10 alla terza secondi, qual è la distanza tra voi e la stazione?